694. Latteruolo. È un dolce molto delicato che in qualche luogo di Romagna e forse anche altrove in Italia i contadini portano in regalo al padrone per la festa del Corpus Domini. Latte 1 litro, zucchero grammi 100, rossi d'uovo numero 8, chiare d'uovo numero 2, odore di vaniglia o di coriandoli. Fate bollire il latte con lo zucchero per un'ora ed anche un'ora e un quarto, se non siete ben sicuri della sua legittimità. Se per odore vi servite dei coriandoli, adoperateli, come indicato nel numero precedente, al latte, rompete di quando in quando la tela col mestolo, passatelo da un colino per più precauzione e quando sarà ghiaccio mescolatelo bene alle uova frullate. Preparate una teglia foderata di pasta matta numero 153. Disponetela, come nel migliaccio di Romagna numero 702, versateci il composto, cuocetelo con fuoco sotto e sopra a moderato calore, perché non rosoli al di sopra. Copritelo di carta unta col burro. Aspettate che sia ben ghiacciato per tagliarlo a mandorle con la sfoglia sotto, come il detto migliaccio.